Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Siamo con Edda Villi, che abbiamo già incontrato in radio, perché su di lei, quando ha compiuto 80 anni, possiamo dire la tua età? Oh, capiranno 81 tra poco. Ecco, quando ha compiuto 80 anni ha... 82. Io non ti volevo correggere, perché Edda alle donne non si chiede le cose. Però... 82, vero, 100%, dai. Allora perché quando hai compiuto 80 anni è stato fatto un film, no? Sì. Che racconta la tua storia di vita. Adesso, alle soglie dei tuoi 82 anni, mi sembra di tu, lo dirò anch'io, alle soglie dei tuoi 82 anni esce il tuo primo libro di poesie. Ma chi sei? Chi è Edda Villi? Noi già l'abbiamo intervistata, noi la conosciamo bene, la conoscono anche le nostre ascoltatrici, perché appunto ti abbiamo già avuto con noi, ed è una donna impegnata da sempre con il movimento femminista, lesbico, brava. Lei lesbica e femminista, tutte e due le cose, e che si è battuta per tutta la sua vita, e ancora oggi, per la realizzazione di un sogno che era, per esempio, la Casa Internazionale delle Donne. E adesso siamo qui, infatti, l'intervista la stiamo facendo qui alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, ma è una casa internazionale. La provenienza, da dove viene Edda? Viene dalla stessa terra da cui vengo io, dalla Maremma. E precisamente ha il gusto del mare, degli odori, dei sapori, dei colori del mare, così come io li trovo molto vicini, e dal mare di Follonica. Poi arriva a Roma, con alterne vicende, le saltiamo, sì, però tante vicende. Ci sono tante vicende. C'è Londra, c'è Arezzo, ecco. E c'è anche Carrara, pensa. Pensa, quindi ci sono varie vicende. Sì, sì. La Toscana te la sei vissuta, sì. E poi anche adesso. Fino a 21 anni. Ecco. E poi a Roma incontri dopo, anche qui, dopo varie vicende, no? Che erano determinate dalla vita, dalla storia, in quel momento incontri il movimento femminista e incontri il gruppo di Pompeo Magno. Sì. E qui inizia il tuo periodo fecondo che ti porterà poi all'AFI di oggi, dove tu sei presidente, e al progetto Casa Internazionale delle Donne di Roma, no? Sì. Allora, il film di cui abbiamo già parlato, lo vogliamo solo ricordare, è stato girato con le immagini di Edda, con la storia di Edda e con il contributo di Paola Matrangeli e con la regia di Laura Valle. Mentre si intitolava Cento di questi giorni. Ah certo, Cento di questi giorni, grazie, e quindi in questo ci siamo. E adesso invece finalmente abbiamo il tuo primo libro. Sì. Che si intitola Isola Notte ed è edito da Jacobelli, quindi così cominciamo anche a dire qualcosa sul tuo libro, e sono raccoglie le tue produzioni poetiche per il momento, la prima parte, perché tu sei molto feconda, molto feconda, è così, perché sei una lesbica, no, cioè, molto fecondissima. Noi stavamo dicendo che è da sempre scritto, è da sempre scritto, e per esempio, così com'è nell'Aiku 25, lei dice: ritrovare parola è la mia storia, quindi la parola è per te fondamentale, è un tratto essenziale della tua pratica individuale e politica. Ci vuoi dire qualcosa su questo? Sì, perché sono convinta che uno dei... diciamo così, delle ricchezze grandi che hanno anche le donne lesbiche, è questa possibilità che hanno di mettere in parola quello che io oggi chiamo più che lesbismo, lesbicità, che è qualcosa di così profondo che unisce le donne e le può unire davvero in tutto il mondo al di là del sesso, che è una cosa che trovo di una grande difficoltà da spiegare, ma se si cominciasse a ragionarci sopra forse potremmo davvero scoprire che nella lesbicità c'è il confronto, l'incontro dei corpi di donna e una conoscenza così particolare che indubbiamente il lesbismo ci ha dato, perché lì c'era proprio l'incontro anche fisico, ma nella lesbicità c'è qualcosa che va oltre il corpo e che è un incontro di anime. E quindi per me la parola è l'espandersi, la possibilità di far conoscere anche alle altre donne la nostra anima, che non è uno scherzo, perché un'anima lesbica credo che abbia delle fattezze molto particolari, persino un po' diverse da quella di una, per esempio, di una cornacchia o di una tortora o di una cutrettola. Io adoro gli animali, lo sapete, specie certo. Quelli che volano, non l'ho chiamato uccelli, l'avete no. Notato? L'abbiamo notato ormai, te ne siamo grate. Ma perché con voi mi diverto sempre così tanto? Ma sarà affinità lettive. Ma un'altra domanda è: da quando hai iniziato a scrivere poesie? Quando hai scoperto questo? Ero una bambina di quasi di 5 anni, cominciavo a scrivere e scrissi la mia prima poesia su una cartolina, una cartolina che aveva tutta un'esplosione di primavera, e io scrissi: quanto è bella la quant'è bella primavera, si è svegliata la natura con una bella fioritura, e mi ricordo che c'era questo una bella fioritura che non tornava, capito? Ma l'avessi questa cartolina, ti giuro, è bellissimo questo ricordo, certo. Perché poi bastava dire con una bella, non tornava come rima, capito? Con una bella fioritura, ma con una bella fioritura mi tornava, capito? Quindi no, da sempre, io scrivo veramente da sempre. E devo a Linda, Linda Gaffù, non c'è più la nostra compagna meravigliosa delle donne casalinghe, del collettivo casalinghe, l'avevo buttata e lei me l'ha ripresa, non so dove l'ha trovata, forse l'avevo buttata qui, e me l'ha ridata tutte insieme, guarda, è stato un bellissimo regalo, devo dire, perché poi io le scrivevo, è come se le scrivesse sulla sabbia, che bello, assolutamente. Sulla sabbia arriva l'onda e te le porta via, se le prende il mare lo trovo di una bellezza infinita. Invece poi ho cominciato a scriverle nero su bianco e devo dire, ho cominciato con gli haiku, perché gli haiku, io non so più di scrivere haiku, gli haiku ce l'ho innati, mi vengono straordinariamente da soli, date la pesca perché l'haiku nasce nel 500 in Giappone, non è nemmeno una roba ricchissima, quindi cosa sarà, una femmina giapponese che è dentro di me, non è possibile, una delle tue tante incarnazioni, anche perché noi lesbiche ci apparteniamo, è probabile. Devo dire, da qualche anno a questa parte, circa un 7-8 anni, io ho deciso che l'haiku era di una costruzione terribile, proprio ti costringe a 5-7-5, lo sapete, no? E non si può uscire, si fanno anche poi gli altri 5, altri 7, ma il vero puro haiku è 5-7-5, allora va bene, qualcuno è anche molto bello, lo so, però la costruzione rapida, mi sono liberata. Ho cominciato a scrivere in grande libertà e questo è il risultato. Ed è un bellissimo risultato. Io mi chiedo se per caso voi avete idea perché si chiami Sola Notte. No, questo avremmo voluto farti. E allora ora la prima volta che lo dico, mi dice niente Bosco di Notte? Beh, la foresta della notte. C'è una cosa. Bosco di notte, no, che è di una scrittrice incredibile, che comunque vi do solo questo accenno, poi voi cercherete. Va bene, vai. E devo dire, sono venute fuori davvero delle queste parole di cui parlavi tu prima. È come se si affollassero piano piano nella mia testa, nel mio cuore, nella mia anima, nella mia vita, e poi piano piano avessero voglia di uscire. E quando escono, voi dovete sapere che io non correggo mai. Io non ho una correzione nelle mie poesie, sono assolutamente subito pulite, e sembra che questa sia una cosa un po' straordinaria, e ve la dico perché lo è, però non è vero che non sono state ripulite, sono state fatte già dentro queste operazioni, evidentemente, perché quando escono tranquillamente. Già nella forma definitiva. Sì, assolutamente nella forma definitiva. Io credo di aver mai, nemmeno per scherzo, cambiato una parola, capito? Senti, Edda, prima di continuare a parlare del libro, tu ci hai detto che hai una poesia che nel libro non c'è, perché è possibile che ci sarà un'altra pubblicazione, noi la certo. Speriamo, perché questo ce lo siamo già divorato, sì. Allora dobbiamo mangiare dell'altro, sì. Allora, ci vuoi leggere questa poesia che peraltro è storia, appunto. Sì, assolutamente sì, ed è dedicata, perché io, non tutte, ma alcune sono dedicate, è stata questa meravigliosa, non so quanto per lei, perché molti hanno pensato che Paola fosse una mia amante, perché sono molte dedicate a lei. Invece no, Paola non è una mia amante, io con lei ho un rapporto di lesbicità, questo sì, ecco. Ma non di lesbismo, perché lei è una mia amica etero, ecco. Sia chiaro, lo voglio dire perché glielo devo riconoscere, certo. Perché ogni volta che andiamo, persino nelle prefazioni, è venuto fuori che forse... Non si sa mai. Invece tutte le altre sono da Alice in poi a Elena, sono veramente storie d'amore, avuto a Gianna, sono storie d'amore, assolutamente di amore, anche importanti. Ho avuto tanti amori importanti. Io lo so, questo, prima che tu legga questa poesia, questa cosa di te la voglio dire, sì. Tanto tu me lo permetterai. È tutto. Ecco, io mi ricordo che una volta eravamo in macchina, io, te, Simonetta, e una mia fidanzata di allora, che guidava, e tornavamo o andavamo a Firenze al Giardino dei Ciliegi, sì, perché c'era un'iniziativa, eccetera, sì. E mi ricordo che io ti chiesi lì, ma, curiosità, Edda, quante fidanzate hai avuto? E tu mi rispondesti candidamente, non lo so il numero, beh, tante, però... Cittina, mi sono sempre innamorata, anche per una notte. Lo confermo, non avrei potuto farci l'amore, capito? Questa forma di innamoramento, scherziamo, lo condivido pienamente. C'era innamoramento, capito? C'era lo scambio di cose, meraviglioso, ma potevo, se non ci fosse stato innamoramento, impossibile, sono d'accordo. Allora, introduciamo così questa tua poesia, che si svolge a Zanzibar, che era il luogo storico di ritrovo delle donne, sì, femministe, ma lesbiche, a Roma, negli splendidi anni 70-80, sì, sì, ok? Sì. Allora, e quindi di tu, adesso parli tu, perché... Sì, Zanzibar viene dopo il Giraluna. Vi ricordate il Giraluna? Io no, forse le compagne di oggi non lo sanno, ma il primissimo luogo, sempre lì a Trastevere, credo, ma anche abbastanza vicino allo Zanzibar, se non era addirittura al solito, voluto da Mimi Graverini e da altre, e nacque il primo, che si chiamò Giraluna, un nome che gli ho dato io, perché era bella, era il Giraluna, era molto bello. Poi è venuto lo Zanzibar storico, questo lo conoscono tutti. E allora questa è una poesia che io ho dedicato a Giovanna, dice così: sguardi sopra le righe mentre si cercano i corpi nel ballo di una notte d'estate, trema il ghiaccio del bicchiere mentre mi guardi. Amore, splendida Edda, grazie, grazie. Che devo dire erano incontri, era un luogo molto piacevole, molto simpatico e non è che fosse proprio, era piccolo, quindi non è che c'era grande possibilità, ma i corpi che ballavano c'erano sempre. Questo. Edda, allora, il libro Isola Notte è diviso in quattro sezioni. Mm-hmm. Tu hai già introdotto la sezione degli haiku dicendo alcune cose, sì. E quindi, ed è diciamo la quarta parte del libro. La prima parte si intitola Il bollettino delle naviganti. E, se noi abbiamo capito bene l'intenzione tua nelle poesie che sono raccolte in questa sezione, uh-huh. È quelle che rappresentano l'incontro tuo con il collettivo, e quindi è quello che dice andiamo insieme, andiamo dove, andiamo a costruire insieme. Non so se... ci avete dato, assolutamente vero, Meno male, primo esame l'abbiamo passato. e sono splendide. Allora, se tu ce lo consenti, magari leggi tu come vuoi, perché... No, a me fa piacere se lo leggi tu. Sentirlo da altre voci è un piacere, guarda. Allora, questa ci provo, sì. Perché non so se... Allora, questa è la poesia 14 e dice: perché c'è un angolo di strada che non ho mai oltrepassato. Mi sono sempre fermata prima a mangiare un gelato alla crema. Ed è bellissimo, perché io la trovo di una ironia, ma anche, cioè, anche rispetto al c'è un limite, bene, questo limite... Io di questo limite me ne frego, no? Certo. E quindi... Sai, cioè, eravamo in pieno il senso del limite, ve lo ricordate, no? Il senso del limite era importantissimo. E l'idea che sia un gelato a impormelo mi sembrava molto più compacente. Sì, molto più simpatico, onestamente vera questa, sì. Il senso del limite. Ma sai, prima mentre parlavi dicendo che tu non hai mai fatto nessuna correzione sulle cose che scrivi, no? A me... mi è venuto quasi spontaneo dare una motivazione, correggimi se sbaglio, se magari ho vaneggiato nel dargli una motivazione. Il problema, cioè il discorso è che tu, siccome le tue poesie parlano di passione, di amicizia, di amore, di sentimento, e sono tutte cose presenti dentro di te, nel momento in cui le esterni non puoi fare altro che esternarne come le senti, quindi senza correzioni, perché sono talmente tanto vere le cose che senti e talmente tanto forti che le puoi scrivere solo in quel modo, ed è per questo che ti vengono così. Questa è la sensazione che... No, è grosso modo, sai quello già che ti ho detto prima, perché sono già depositate, esatto, sono depositate dalla mia storia, esatto. E la mia storia è anche quelle parole che vengono fuori nero su bianco su un pezzo di carta, che è una cosa bellissima che io adoro, perché io adoro la penna, adoro scrivere, sono costretta dal computer a non vedere più negli occhi le persone, e questo mi rattrista tanto, spero che rattristi anche voi, sì, perché i nostri collettivi erano fatti di corpi che si cercavano, che si incontravano, che si guardavano, che si toccavano anche, sì, come no, era questo la grande, lo scoprirsi insieme e scoprire insieme il mondo, è stato uno veramente una delle grandi scoperte del femminismo. Allora, ci sono altre due poesie che stanno sempre in questa sezione, che noi abbiamo scelto, perché sai, anche noi cominciamo a crescere, a diventare grandi. Cominciamo, sì, io sono sulla soglia dei 60 e quindi... Una bimba! Sono una bimba, sì. E delle bimbe. Però abbiamo scelto queste due poesie che... contrariamente a quanto abbiamo detto fino ad ora, che sulla sezione del bollettino delle naviganti si parla più del collettivo, che però affrontano un'altra questione, che è quella dell'età, comunque del rapporto con il tempo che scorre, no? Sì. Che è bellissimo, Perché se io ricordo il femminismo e comunque il mio rapporto con il femminismo nella seconda metà degli anni 70, perché ho avuto la fortuna di fare gruppi di autocoscienza e quindi di lavorare in quel senso, era appunto che la questione età non esisteva. Eri così in fascia, insomma. C'avevo 18 anni. Allora sì che ero un bimba, ora no. Però era un'ecografia, facevi l'adolescenza, facevo quattro anni, bellissimo, guarda, fantastica. Non con le bamboline, perché quello non avete mai fatto. E allora, insomma, proprio anche su, in virtù di quell'aspetto che tanto, era tanto, secondo me, interessante, no? Perché era l'esordio, no? Era comunque l'esplosione del femminile a un altro livello, e per cui l'età non contava, perché contava l'essere donne, lo scambiarsi, il far scorrere le esperienze per quelle che erano, no? E quindi questa storia dell'età. Allora, sono le poesie 24 e 25, che forse se legge, tu devi sapere che Rosina non la chiamiamo The Voice. Sono ignobili anche loro. Oggi ho qualunque età, anche il fiume lo sa, e non è altro. E questa è la numero 24, che è bellissima, è molto poetica. Sì. La 25 io la trovo straordinaria. Cauta mi stendo sull'orlo del tempo, in vecchio adagio. vero, mi piacciono ancora. A noi le troviamo straordinarie, perché oltretutto, cioè, il nostro essere lesbiche è anche... racchiude sia anche questo aspetto, cioè l'età non è così drammatico, no? Cioè gli anni che passano non sono così drammatici. Per Rosina no, Rosina in genere sta scherzando. Sono diventata vecchia. Sta scherzando. Però noi non è drammatico, capito? Non è drammatico. Per noi non è chissà che cosa succede perché il tempo passa, anzi il tempo per noi che passi è una cosa molto bella, perché ci permette altri incontri, no? Altre cose, altre esperienze, no? Anche se possono essere più lette in chiave positiva o in chiave negativa, ma sempre belle esperienze sono, perché le facciamo con le donne. E rispetto a quello, al concetto di cui hai parlato tu, no? Quello del lesbismo o invece lesbicità. La lesbicità, no? E quindi è un modo di essere donne. Io mi auguro che almeno le giovani prendano in mano questo concetto, perché c'è da lavorarci tanto, o anche poco, non lo so, ma c'è anche da lavorarci da altre teste, altri fuori, altre anime, perché sono convinta che ne verrà fuori qualcosa che ci sarà molto utile, che sarà molto utile anche alle donne. Sì. Perché ci darà la possibilità di oltrepassare le soglie della tolleranza, quel mostro terribile che io odio, lo sapete, no? Perché se c'è una cosa che odio al mondo è la tolleranza. Sì, perché se devo essere tollerata, che vuol dire? Vuol dire che c'è qualcuno che vale più di me. Esatto, non mi conosce, ma insomma, sappiamo tutto. Sì. Noi lo sappiamo perché lo viviamo. Altre persone, quando invece no, ti dicono, ma io tollero, sono come se fosse un aspetto di democraticità. Ma io ho tanti amici, tante amiche, ma per carità, e io... sono una non violenta, ma li spezzerei, sinceramente. È una cosa che mi manda proprio fuori di me. Vabbè, allora torniamo al nostro libro. Sì. E allora, non so se tu ci vuoi leggere qualche poesia. Sì. A te. No, vi volevo spiegare questi due IQ come sono nati in un parco di Roma, e io stavo portando a correre lì la mia canina. Bellissima, era una canina deliziosa, lo voglio dire. Sì, era proprio un amore grande. Ecco, e quindi è legato anche a lei, e quindi mi fa molto piacere. Ogni volta che sento queste due cose penso anche a lei, che non c'è più. Grande dolore. In un parco bellissimo. Nel paradiso dei pelosi insieme a Pentesilea, la mia carina. Che bello. Corrono insieme, io lo immagino sempre insieme. Sì, perfetto. Mi piace. Questa cosa mi piace. Bene. Allora, sì. Se passiamo all'altra sezione, ed è la sezione Maremma. Mm-hmm. Ovviamente Davide mi si scioglie il cuore, no? Naturalmente. Però io devo dire un'altra cosa di te, che io ti ho amato da subito, perché tu sei stata la compagna di una mia musa, di Miranda, che anche lei non c'è più, però insomma è stata una donna molto importante nella mia storia, nella mia crescita, ed è stata Grosseto. E io poi ho saputo da te che è stata una tua compagna. Sì. E quindi io ti ho amato subito per questo motivo. Cioè, questo è stato il motivo, la chiave, sì, certo, la chiave che mi ha fatto incontrare la tua anima, insomma, no? E voglio dire questa cosa perché mi piacerebbe che tu raccontassi quell'episodio a Grosseto, appunto, che ti ha portato alla ribalta della storia grossetana quando tu eri molto giovane, perché sei finita su un giornalino. Sì, sono finita su un giornalino di studenti, che non mi, il titolo del giornalino non me lo ricordo, so solo che hanno fatto queste due caricature, una ero io e l'altra era Miranda, che andavamo a braccetto, no, per mano forse non avevamo, non c'eravamo arrivato, forse sì, chissà, e sotto c'era scritto De Gustibus, perché il fatto di essere lesbiche quasi dichiarate è stato per loro una cosa che li avrà divertiti molto, ma io devo dire ben felice, perché ho una memoria splendida di quel periodo, capito? Perché anche io, grazie a Miranda, devo la conoscenza di Roma, perché lei faceva parte dell'UDI, sì, e quindi me ne ha parlato, e quando io sono arrivata a Roma, grazie anche a lei che ho cominciato a frequentare anche l'UDI, no? E poi ho scoperto Pompeo Magno, e lì è stato il grande amore della mia vita. Il tuo luogo, no? Sì, il mio luogo, sì, decisamente il mio luogo. Allora, la Maremma però rappresenta anche l'origine, la tua origine, che è fatta di profumi, di colori, di tutto, insomma, no? E non so, se andiamo subito a leggere una poesia? Sì, perché no? Allora. Fa piacere sentirle, che strano, eh? Di solito. Allora, la numero 2, la legge nuovamente Rosina. Sì, bellissima. Quando l'aria si schiara e un cavallo rimane muto, le quattro zampe ad arco, è quello il tempo di partire. Il cavallo ha un nome, si chiama Onda, sì, perché io ho avuto un cavallo, perché mio padre faceva di lavoro, andava dai contadini a comprare era come si diceva da noi un pollaiolo, si chiamavano i pollaioli, cioè. Lui andava dai contadini facendo delle gite, si chiamavano le gite del lunedì, del martedì, del venerdì, tutti i giorni, no? E ogni gita aveva diversi pezzi di campagna che era intorno a Follonica. E Onda era la cavalla che ci portava quel barroccio. E io l'ho adorata perché era marrone e... Chissà se questo posso raccontarvelo. Sì, sì, ve lo racconto. Mi faceva impazzire quando allargava le gambe e faceva pipì. Perché era una cascata di onda di profumi d'erba meravigliosi. Certo. Ecco, non c'è impossibile che la pipì del cavallo ti fa. Sì, io ho memoria di questa cascata bionda profumata d'erba. Certo, perché il cavallo mangiava l'erba e quindi questo di le è dovuta, anche se non l'ho chiamata Onda, però è strano, sì. avrei dovuto, vabbè. Allora, e quindi, la Maremma è anche l'incontro con uno dei tuoi primi amori, sì, Gianna, sì. E qui tu dedichi una poesia a lei che si intitola proprio Per Gianna. Leggi sempre tu? Come? Sì, dai, che sei brava di me. The Voice. Avere la dimestichezza di un fauno che passi veloce fra gli alberi d'acacia, una puntura d'amore che ti scuota l'anima, e anche il piccolo lago diventa mare, e le tue mani rose e aggrovigliate tra profumi e spine siano castelli di utopie per noi che credemmo alla gioia dei primi mattini, mentre la sabbia si lasciava possedere dalle onde, dolci come miele. Non lo potete vedere, ma è tanto. Un attimo. Gianna Ciao è stata una donna che ho amato molto, eccola là, vedi, so sì. Che la foto portata sì. Qui. Questa aveva già sugli 80 anni, ma lei era una forza della natura, era un genio, prima o poi lo scopriranno perché era una grande scrittrice e una grande fotografa. Lei sfotografava, non fotografava, e la sfotografia era prendere l'essenza di una foto. Certo. E devo dire, ha fatto delle cose eccezionali. Io ho visto una mostra sì, di Gianna. Assolutamente delle cose eccezionali. Quello che non capisco è com'è che ancora non l'abbiano riscoperta, prima o poi lo faranno. Sì. E con lei è stato il primo incontro davvero importante, perché mi ricordo mi ha baciato su un muretto davanti al mare, credevo di morire. Certo. Eravamo proprio vicino, c'è un fiumiciattolo che si chiama La Pecora a Follonica, sì. Che va in mare, e c'era un muricciolo e noi eravamo seduti lì e lei stava scendendo la sera e lei mi ha baciato. E tu ti sei innamorata? Io sono morta d'amore proprio. Lo credo leve. Era bellissima perché lei l'avevo conosciuta 5 anni prima. Lei veniva a Follonica e girava in una jeep, perché lei faceva parte dell'UL, mi sembra che si chiamasse URRA, ed era non so se tenente o capitano, quindi era anche, aveva anche gradi, era una Madonna, cosa, il fascino della legge, lei ci dava in jeep con il piedino di fuori, capito, bella, perché portava sempre un foulard, si truccava, era truccatissimo tutto, quindi io ho questa memoria di Gianna con degli occhi splendidi e assolutamente una donna fantastica, sì. Dopo 4-5 anni l'ho conosciuta e mi ha baciato sul muricciolo. E quindi lì è nato il tuo amore. Eh sì, questo è stato il primo grande amore, sì. È bellissimo. Ebbene, ci stai regalando delle grandi perle. E allora la Maremma è anche il mare. Leggiamo un'altra poesia, questa è sul mare. È la poesia 28. È bello questo dei numeri, è bellissimo. Del mare sappiamo quel poco che ci dice la riva, scrittura di alghe e conchiglie. Del resto solo i naufragi potrebbero parlare, ma non c'è chi sappia interpretarli. Rende proprio l'idea del mare, sì. E della grandezza, no? Infatti una delle mie passioni è, quando vado al mare, prendere tutte le memorie, di quelle che io chiamo memorie dei naufragi, che sono i pezzi di barca colorata, le cose più strane, ormai in base della plastica, e questa è una tragedia, invece a nostri tempi non c'era, era il trionfo del legno, pezzi, bello, lavorato dalle onde, e le conchiglie, le più straordinarie, ora non ci sono più nemmeno conchiglie, non so se lo sapete, veramente io trovavo sempre le unghie della Madonna, erano quelle rosa belline, o quelle tutte attorcigliate, delle cose fantastiche che purtroppo non ho più rivisto nessun tipo di mare, nemmeno a Sabaudia, nemmeno alla Dispoli dove abita Paola, da nessuna parte io ho trovato più conchiglie. Io andavo d'inverno a Principina a mare, certo, che invece è Rossino, certo. E lì andavamo, insomma, quando eravamo ragazze, eccetera, e c'era questa distesa enorme di alberi, la spiaggia era praticamente un bosco senza foglie. E con questi alberi che erano lavorati dal mare, appunto, ed erano bianchissimi, tra l'altro, forte, bianchissimi, erano tutti levigati e bianchissimi, ed era una cosa, infatti noi ci passavamo proprio le ore lì, ci andavamo poi con i motorini, ci andavamo in tutti i modi, a piedi con i motorini ci correvamo, quindi sì, anche io ricordo questo ricordo bellissimo, sì. Del mare d'inverno, perché poi era ancora ora per me è più bello il mare d'inverno che d'estate, insomma, sì, per forza, mi lascia questo struggimento. Anche perché non trovi quella massa di gente, esatto, accalcata l'una sull'altra, per me lo vogliamo dire. I telefonini che squillano e le radioline, no, ma le radioline non vanno più di me. Le vogliamo dire cosa si dice in Maremma rispetto a quelli che scendono in Maremma per andare al mare? A Grosseto si dice fuori gli arfisi dalla Maremma, che sarebbero Arezzo, Firenze, Siena, arfisi. e non riesco a se invece mi mancava, questo mi mancava completamente, madonna mia, che bello, che bello. Bene, e quindi niente, questa è l'altra sezione bellissima. E adesso arriviamo alla sezione, quella sull'amore, o quella che si chiama Eresos. Vogliamo dire che vuol dire che è Eresos? Sì, lo sanno in pochi, è davvero dove è nata Saffo, esatto. Non è nata a Lesbo, è nata Eresos. E quindi il paese, il tuo paese. E quindi, sì, è l'amore. Sì, è l'amore. Assolutamente sì. E allora andiamo a dircene una sull'amore, che è il numero 2 di Eresos. Anche se dorme e segue sonni, accovacciata fra le pietre, l'acqua che scorre è un fiume antico, anche con gli occhi chiusi, ombra che ripaga, anche così lontano nelle pieghe di una memoria incerta, ho cercato di parlare, e qui ritorna proprio la parola di cui abbiamo parlato. E quindi questa è c'è tutto l'amore dentro questa poesia, magari non è dedicata ad una persona, tu hai dedicato alcune poesie. Sì, alcune sono nate, sì, perché sono nate così e le ho lasciate, pensa perché. Ha questa ragione, capito? Però parlano d'amore. Prova ad andare a pagina 49 e ci abbiamo la poesia. Che lavoro che c'è. Abbiamo fatto insieme. 8 marzo 1984. Ecco, certo una data. Per una piega dei tuoi jeans sgualciti. Chiesi chi fu accanto stanotte, morso della gelosia. Beh, sarà contento Saffo, Sì. Più verde di un'erba solo. Abbiamo scelto questa un'erba patita scolorita. Abbiamo scelto questa poesia perché quando ero molto giovane, quando ho incontrato, perché prima non lo sapevo di me, io sono diventata lesbica più grande, ero più grande, sono diventata, mi sono riconosciuta tale. Mi sono innamorata finalmente, eccetera. Le mie compagne femministe, quello che non riuscivano a capire, era che io fossi gelosa dell'innamorata di turno, no? E dicevo, ma scrutando la gelosia. E io dicevo, scusate, ma è un sentimento. È un sentimento come un altro, perché non lo devo avere io? No? Rispetto a una persona che amo, no? E quindi a una donna. E quindi questo è un riconoscere i sentimenti per quello che sono. E vai a pagina 55. Nella stessa sezione, la numero 31, c'è un'altra data qui, ed è novembre 2012, quindi sono passati giovane. 32 anni sono passati dall'8 marzo dell'84. Mi comprerò un tutù, le scarpette le ho prese al mercatino e danzerò la notte delle streghe sopra i cuori di tutte le mie amanti. Ce la spieghi. Questa ce la puoi spiegare, questa è da un lato. Ci è piaciuta tantissimo, abbiamo detto dobbiamo assolutamente leggerla. No, è anche un riconoscimento a tutto, voglio dire, al piacere, all'amore che mi ha dato, no, per carità, perché ballare comunque una danza sul cuore non è una cosa negativa, io lo trovo molto dolce. Cioè, ma certo, è allegro. Sì, anche allegro e anche mi prendo anche un po' in giro, perché certo. Io adoro prendermi in giro ogni tanto, non essere troppo serie mi sembrava la cosa minima, guarda, perché c'è anche troppa gente seria in giro, anzi seriosa. Esatto, e quindi sì, infatti noi non l'abbiamo presa come brava, chissà che cosa dice delle sue amanti, perché ci è piaciuta moltissimo, perché almeno per noi, per me, ogni donna con cui sono stata è un pezzo della mia storia. Assolutamente. E io sono uscita fuori, sono nata di volta in volta e nella storia che ho avuto è nato un aspetto mio, è uscito fuori, quindi ha visto la luce. E allora sono debitrice a queste donne che mi hanno amato e che ho amato di quella che sono oggi. Certo. Quindi credo che questa poesia renda proprio questo elemento. Sei anche fatta di questi amori. Certo. E poi la cosa straordinaria, perlomeno per me, nella mia vita, io sono amica delle mie amanti. Ma questo capita a molte donne lesbiche? Sì, assolutamente, sì. Cosa che non riesco a capire, non riesco a capire quando ci sono rotture terribili che poi non si vedono più. Sono cose, mi chiedo che tipo d'amore fosse, capito? Perché sì, lo so, però c'è, la domanda bisogna farcela, la domanda va fatta. Certo. Poi uno si risponde anche se vuoi. Come non c'è? Perché dopotutto, se è successo che ci si lascia, ci sarà perché. Come? solo. Voi non potete vedere il gesto, ma noi l'abbiamo visto, è per questo che vediamo. Eloquente. C'è sarà la vergogna. Allora, passiamo all'ultima sezione, che però è quella di cui abbiamo parlato sia all'inizio, e quella che sono proprio degli haiku, sì, di cui tu già ci hai detto delle cose, che quindi ti vengono, sono spontanei, e che sono proprio liberatori, no, per te. Allora, uno l'abbiamo già letto, ma lo rileggiamo nella sua interezza, che è appunto l'haiku, quello che abbiamo menzionato come il 25, e dice: rito di streghe, ritrovare parola è la mia storia, che è bellissimo e rende giustizia a quello che per noi è, cioè chiamare streghe le altre donne, chiamare streghe le donne che ci hanno preceduto, chiamare streghe le donne che hanno dato il loro sapere alle altre donne, è il nostro grande riconoscimento, no? Quindi questa poesia, oltre alla parola, appunto dà la continuità, da quello che tu dici rispetto all'essere lesbico, alla ricerca del lesbismo, che è una cosa diversa, che non è soltanto legata all'aspetto della sessualità, no? Assolutamente sì, sì, è il concetto della lesbicità, infatti, c'è anche questo aspetto qui, sì. Ecco, io una delle cose che devo ringraziare è che essere immerse così nelle cose che ho scritto e che voi, da quello che sento, le amate, mi dà un grande senso di gioia e di, come dire, in una situazione come quella di oggi, una situazione internazionale dove le donne sono violentate, sgozzate, sono, dico queste brutte parole perché le devo dire, certo, perché è così purtroppo, dove le donne sono veramente perseguitate a dei livelli altissimi. E mi chiedo come mai noi non si riesca a prendere in mano, per esempio, un aiuto alle donne curde che stanno facendo cose eccezionali per la loro libertà. Certo. Donne per la loro libertà, donne, credo musulmane, perché non, certo, è che io sono molto, che conosca poi a fondo le situazioni, ma loro lo fanno per sé anche, e per le figlie che hanno, Beh, trovo che non ci sia parola su questo davvero, che davvero serva a qualcosa, e allora questo mi dà una grande tristezza, devo dire la verità. E allora un'oasi come quella di oggi, mi sono molto grata perché mi avete fatto uscire da questo... Sì, comunque anche noi pensiamo che siamo debitrici alle donne degli altri paesi, che sono, spesso adesso sono le donne musulmane o comunque che vivono in quei paesi, che stanno portando avanti, diciamo, lo standard del femminismo, vogliamo dire così, ma sono loro che stanno facendo delle cose, noi non stiamo facendo niente. Noi per massimo possiamo... capirle, star loro vicino, e io vorrei che lo facessimo, ma indubbiamente la liberazione verrà solo se loro la vorranno. Ah, certo, non ci sono possibilità, è come mi ricordo l'epoca della clitoridettomia, quando noi ci permettemmo di cominciare a discuterne, e mi ricordo una donna mi disse: non ti aspetta, aspetta solo a noi parlarsi. Mi ha detto una lezione molto, molto pesante, però rimane il fatto che l'idea che una donna venga mutilata, io comunque ho un dolore, però è vero che la loro liberazione è solo la loro liberazione. Certo. Ma scusate, ma avevo bisogno di dirla sta cosa. Allora, leggiamo un altro haiku, che è bellissimo, ed è, questo lo voglio leggere io. Sì, amore. Allora, mani che sanno della tua schiena bianca, tutti i tremori. Che è bellissima, è bellissima. Sì. Perché noi sappiamo bene cosa vuol dire. Esatto. E ci siamo un po' scordato, però l'abbiamo avuto. L'abbiamo avuto, però. Io aggiungo che si perdono. Che si perdono, è vero. Che si perdono. Sì. E basta. volevo soltanto le due Edda, quelle su tua madre e tuo padre. Sì. Hai detto di tua madre non, è, non parli molto. No, non parlo molto, non parlo molto perché ho molta difficoltà. Di mio padre poi ho una difficoltà pazzesca, lo sapete perché, no? Sì. Perché veramente è stato, sì, assolutamente. Rimane il fatto che comunque ho memoria di lui a cassetta del Marroccio e di Onda che andava, comunque ho ancora degli sprazzi che erano molto belli, però capito, perché quelli ce l'ho, nessuno me li può togliere, sia chiaro. Certo. Questo va da sé. E di mia madre che era un po' succuba di mio padre, e questo mi morceva il cuore, per dirlo, certo, in maniera antica, veramente. E quindi come se fosse stata poco amata, forse viene fuori un po' questo. Però rimane il fatto che mia madre mi è morta fra le braccia, stavo partendo per Roma, è caduta, io l'ho presa e mentre la prendevo ho sentito proprio che lei se ne andava. È una specie di stacco di chi mi aveva dato la vita e credo che si senta, io in quel momento l'ho sentito proprio, quindi che c'entra? Non ho avuto grandi amori da loro, perché è vero, assolutamente vero. Folloni che è stato questo posto di, per me questo posto di gesso, che non, nel quale ho patito tanto, ho anche gioito tanto, ho incontrato anche un amore grande, però è veramente come se lo vedessi attraverso un vetro ancora. Certo. Non sono riuscita a... C'è ancora una distanza. Sì, assolutamente, assolutamente, mai superato. Anche perché i maremmani sono delle personaggini abbastanza... Sì, noi sappiamo qualcosa. Loro lo sanno perché siamo maschi. Un po' maschisti, abbastanza. Allora, prima quello sulla madre, legge Rosina. Era mia madre, la donna che mi ha scelta, la prima amante. Il contributo alla madre è molto, molto bello. Anche appunto mi ha lasciato, certo. Avaro padre mi dava pane e vino, aspro nei denti. E quello era lui. Sì. Quindi hai fatto, certo, due foto assolutamente che li ritraggono, anzi, due foto. Se possiamo usare un termine già... Ciagnano? Sì. Ciagnano. Allora, credo che il nostro tempo sia finito e quindi ti salutiamo Edda e ti ringraziamo per ora. Un'ultima poesia. Un'ultima poesia, se ce la leggi tu. Ma una delle ultime fatte? Sì, quella che vuoi tu. Che ho scritto, si chiama Rezium, per Mimmi. Ah. E trovo abbastanza piacevole. Tu che ne sai di soli sconsolati e delle corse lungo filari gonfi di viola, del cane innamorato, di piccoli rosa scorpione sotto i sassi e le peonie, e la scoperta del vino nella cantina buia, dei violini nascosti e dei passi furtivi di fantasmi antichi, non sono neni e bambine, ma sconfinati miraggi appese al filo rosso del tempo. Questa è una storia molto precisa perché Dore, la sorella di Mimmi, aveva una cana che si era innamorata, era un box, si era innamorata di un cane di una bruttezza, di un orrore, di una tragedia per uno col collone così. Sai che portavano quei collari con gli spuntoni pieno di croste, di lotte, di cose, che si affacciava alla casina che Mimmi aveva preso vicino Arezzo, si affacciava con il testone e... La canetta impazziva. Impazziva d'amore. E un giorno è scappata con lui. Io l'ho vista mentre scappava a piedi con le ciabatte, mi ricordo, l'ho inseguita lungo filari di uva e mi è sparita, è andata e è rimasta un giorno e una notte con lui. Ha fatto la puntina d'amore. La puntina d'amore. E quindi c'è questa storia da calcare. Bellissimo. E la mia scoperta del vino, perché io ero astemia, e invece un giorno mi hanno portato giù dove lo levavano dai... Cioè, spillavano. E io l'ho sentito, ho detto, ma d'uva? Perché all'epoca sapeva d'uva, sapevo di meno. E il fatto degli scorpioni è vero, perché noi vicino alla casa abbiamo fatto un barbecue e abbiamo scavato, no? Abbiamo trovato una tana di scorpioncini rosa, belli, siamo pazzi, abbiamo messo il sasso sopra e l'abbiamo lasciato in pace. E anche la storia del violino è vera, perché si diceva che c'era uno Stradivario nelle soffitte. Nelle soffitte c'era un pazzo che ci aveva abitato prima e l'aveva nascosto lì. E siccome si sentivano passetti, erano topi, chiaro, andasse, e allora c'era tutto un immaginario. Sul violinista fantasma, meraviglioso. Beh, grazie. Amore, ma è stato un piacere per me, amore, ma avete fatto dimenticare un po' le brutezze di questo momento. Ok, mi ammazzi ancora, ciao. Ciao, mi raccomando. Grazie. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that. Something's got a hold.